L'autorità di bacino ha coordinato sotto il profilo tecnico-scientifico la redazione di questo piano speciale preliminare che è stato redatto nell'ambito di un ampio gruppo di lavoro che ha visto la presenza di diversi enti e amministrazioni competenti sul tema delle alluvioni. Quello che si è fatto per rispondere appunto ad un decreto legge alluvioni è, secondo me, quanto di meglio si poteva fare in questo contesto particolarmente critico dell'alluvione e in questo momento. È un piano preliminare, a giugno verrà definito il piano definitivo e parallelamente l'autorità di bacino sta portando avanti un'attività di aggiornamento complessivo della pianificazione di bacino, del piano PAI assetto idrogeologico, del piano di gestione del rischio alluvionale ai sensi della direttiva europea e quindi sta portando avanti, come dire, le cose in modo coerente. Di fatto in questo piano speciale c'è un'anticipazione di quelli che saranno i temi che affronteremo nell'aggiornamento dei piani di bacino. Le due cose essenziali che caratterizzano questo piano sono le prime linee di intervento strutturali che verranno poi declinate nel piano speciale di giugno in una programmazione di interventi con anche le risorse necessarie. È importante dire che queste linee di intervento riguardano una strategia innovativa di gestione del rischio di alluvione. L'evento che si è verificato ha evidenziato questa necessità, non è più pensabile ricostruire solo come era prima, ma è necessario innestare delle strategie innovative che consentano un cambio di paradigma. Bisogna soprattutto sui corsi d'acqua arginati che caratterizzano questi territori dalla Via Emilia fino alla Foce Mare, è necessario intervenire su questi argini con strategie innovative. Questi corsi d'acqua arginati hanno dei rilevati che non possono essere più incrementabili in quota, cioè non è possibile pensare di rialzare gli argini. Racchiudono una regione fluviale molto stretta, sono frutto di un'attività che hanno fatto i nostri avi ai primi del Novecento per bonificare la pianura padana. Questi argini, questo sistema non è più adeguato in relazione a quello che è successo, in relazione a quello che succederà, in relazione anche ai cambiamenti climatici con i quali dobbiamo convivere. È necessario innestare delle strategie innovative che sono definite nel piano, che riguardano l'arretramento di queste arginature per cercare nei punti più critici e stretti di dare più spazio ai fiumi e riguardano anche la tracimazione controllata, cioè la gestione dei volumi, delle portate dei volumi di piena che non riescono a defluire all'interno degli argini all'esterno, evitando che l'argine si rompa. Perché chiaramente se l'argine si rompe, come avrete visto tutti, tutta la portata che transita nel fiume fuoriesce in campagna con dei danni enormi. Il piano definisce però anche degli interventi non strutturali, quelli che chiamiamo interventi non strutturali, cioè delle regole, delle norme che come autorità di bacino abbiamo anche approvato con delle misure di salvaguardia. Misure temporanee di salvaguardia, temporanee perché valgono fino a che verranno approvati i piani. Queste misure di salvaguardia riguardano sostanzialmente tre questioni principali. Lo sviluppo urbanistico nelle aree interessate dalle aree allagate è necessario inserire alcune norme per, in questa fase transitoria, limitare lo sviluppo urbanistico al fine di definire queste strategie che vi dicevo prima. È stato definito un processo per la delocalizzazione. In alcuni contesti, soprattutto sui fondovalle collinari montani, nelle zone più ravvicinate al fiume, è necessario intervenire, si può intervenire solo con la delocalizzazione. Quindi abbiamo definito una procedura tale per cui arrivare a giugno andremo ad individuare le risorse da investire in questo intervento che è fondamentale e poi la regione definirà i criteri con i quali intervenire per consentire operativamente l'operazione. L'ultimo tema riguarda i ponti e le infrastrutture. Tutti avete ben presente qual è stata l'interferenza dei ponti e delle infrastrutture durante l'evento alluvionale. È stata fatta un'attività importantissima con i proprietari e gestori dei manufatti, è stato trovato un punto di raccordo che sostanzialmente prevede tre cose principali. In primo luogo la valutazione della compatibilità idraulica. Noi per ciascun ponte, partendo chiaramente da quelli maggiormente inadeguati, dobbiamo fare le verifiche di compatibilità, capire come il ponte interferisce rispetto alla piena, quali sono le condizioni di sicurezza del ponte, ma anche come il ponte può aggravare le sicurezze sul territorio adiacente al ponte. Individuare gli interventi di adeguamento del ponte o miglioramento, abbiamo inserito anche il termine miglioramento, miglioramento, perché sappiamo bene che alcuni manufatti non possono essere adeguati al 100%, ma si può fare delle cose per migliorare la sicurezza sia del ponte che del territorio circostante. Terzo aspetto è definire le condizioni di esercizio transitorio, cioè essendo che comunque questi interventi hanno dei tempi lunghi e necessitano risorse importanti, bisogna con delle condizioni di esercizio transitorio che devono essere definite fra il proprietario dell'infrastruttura e l'autorità idraulica competente, come gestire il ponte durante gli eventi di piena, come effettuare la manutenzione periodica in corrispondenza del manufatto e tutta una serie di regole per cercare di gestire con maggiore sicurezza questa infrastruttura durante gli eventi di piena.